andiamo, su, su. E beh, Lillo, Lillo, Lillo, su che andiamo. E beh, Cipria. Ui, biondo, e beh, Lu. Ciao, Luvola, e beh. Tutto a posto, sì. E tu, sì, dai, lavorando sta. Siamo di positivo. Andare, non puoi cantare se da guardia. Sì, allora, questa volta mi sono buttato la fotovoltaica. Vedi, anche lì dove siamo noi, dove sto facendo la porta lattuio, stanno cercando. E adesso sto imparando, vedo un po' come è il sistema. Perché non la mandi il curriculum dove sono io? E dove sei dove sto lavorando, ma come guardia? Io sì, come guardia, però gli operai fanno coso autovoltaico. Fotovoltaico, no, auto, fotovoltaico. Sì, sì, ho capito. Vabbè, adesso prima come facciamo? Comunque, ne stanno mettendo, Ne stanno mettendo di questi pannelli. Bello, ne abbiamo messo uno in un paese a coso, a Ossi. 15 pannelli, 6 kilowatt. Brigida, non ci sei nessuno, Brigida! E comunque tutto a posto, Lu. Puccati, Brigida tutto a posto, dai. Puccati travaglia. Ah, se non travaglia è male, Se non si lavora è grigia la questione. Tanto gli animali se li ti allassi. Sì, ti rialzi, sì. Poi, ma non è bene che mi stai ascoltando. Cazzo la bomba, sì. Ah, ok, là. Va bene. Questa vede? Cazzo. Come c'è sto stanaglia? No, aspetta, sono agganciato. Guarda adesso, ho capito qualcosa. Ah, sempre uguale. Era agganciato, adesso non c'è stazionaria. Poco a poco mi salgono, La devo tenere questa antenna. Ah, vedete, mi ha tutto la subussina. Posso cominciare nell'antenna. E niente, facciamo un po' di tutto, fotovoltaico, condizionamento, elettricisti, chi su che va? Già lo so, anche lì dove sono io fanno di tutto, elettricisti, vedi, mi sono un po' di tutto. Tu fai la guardia materiale? E la guardia materiale, controllare tutto il perimetro del cantiere, siamo 50 ettari, cazzo non è nulla. Stanotte è il turno? No, domani mattina, cazzo è già smontato dalle 3 oggi, sono diventato dalle 5. Senta, dalle 5 di oggi, così? Allora, mi alzo alle 5, alle 6 sono lì, faccio dalle 6 fino alle 2, sono 8 ore. Vabbè, alla fine. Devi rimanere in chi, non fai sforzo né niente, bussato si voi, così è. Bussato, no, perché devi controllare le targhe, chi entra, chi non entra, poi devi controllare i tesserini della gente, a volte vengono gente nuova che devi controllare. Ah, chi su sì, certo, solo un attimo che lo apro. Ia, sono un cazzo oggi si muoia. Minchia. Lui lascia perdere, chiede sciumento animali. Animali, scamani. Ho sentito ieri dal Leoncino, che era disperato, non era senza lavoro, ho detto guarda, io ti do il numero, non dire che te l'ho dato io, tu dirgli che hai visto un annuncio su internet che state assumendo personale. Non dire che ti ho dato il numero io, ti ho dato il numero del capozona. Ha detto che ha chiamato, che appena è già lo chiamano. No, ma questo mio amico me l'aveva detto tanti anni fa, qualche anno fa. Stavo lavorando qua e là. Perché lui aveva tanti operai, no? E poi l'ho trovato ai candelieri, mi ha detto lui, ma lavorando è stato no, così, poco, quasi niente. Guarda che per settembre mi dovresti servire. E vabbè. E ci sono già, da venerdì scorso. Ho fatto. No, aspetta, ho fatto mercoledì, giovedì e venerdì, da mercoledì ci sono, ma domani è la settimana. È buona, andava. Oggi lunedì o oggi è martedì? settimana a domani faccio. Poi purtroppo mi devo assentare perché devo portare mamma all'ospedale, è urgenza, devo cambiarli il... come si chiama? La devo per forza portare io, non fa portare in taxi. E l'unico figlio, gli altri purtroppo non possono farlo. Devo cambiarli la... come si chiama? Il coso del pacemaker, il... ma... se non mi ricordo mai si chiama un catetere, boh. Perché ha rischio di... E poi la macchina tutto a posto lui. Allora la macchina mi sta accendendo una spia, che è la spia motore. Praticamente mi sta a indicare che c'è un problema al coso antinquinamento, boh. La varia motore, il coso della pompa ti sente. No, la varia motore, antinquinamento. E basta portarla e ti attaccano la diagnosi. No, l'ho già fatta, ma tu non è niente, boh. No, annullata, spenta, se devo poi accesa. Cosa devi fare? Stacca il cavetto dalla batteria, li stacchi per un secondo e le riattacchi, non si sa sempre. Come? Devo staccare il... Stacca il cavetto dalla batteria e va tutto in reset. Qua dopo li riattacchi e non ti si accende. A me lo faceva nella Citroen, nella Picasso. Ma non ho capito, avanti, vanno domani. Domani come smonto dal lavoro lo faccio, vediamo un po'. Spero che non mi crei più problemi. Insomma che ne vecchi lui, se cazzo devi, a me adesso domani la devo portare, che fa un rumore dietro, faccio la curva, sembra che sta toccando qualcosa. Adesso domani la porta, vedi, sono macchine vecchie, se cazzo devi, non ho un problema di avere la macchina a posto con l'anno che va. La mia è del 2008. Figurati, cazzo non è nuova, no? Tu di chi è? La tua di chi anno è? 2006. Via di differenza, non so un po', via. Comunque, come si dice? La macchina vabbè va bene, vabbè questa è un'altra, ma cioè, no, va bene la macchina, che il problema è ogni tanto fa capricci. Però ho viaggiato, cioè scendevo a Olbia, anzi a Baia Sardinia. Sì, io già vado bene, molto già vado bene, molto già sito ho preso, vado bene, come molto, solo che quando l'altra macchina dici che cosa ha preso, da si chiama, ti fate nascere il gabbo. Ah, è voglio fare, hai ragione. Adesso vediamo. Io ho detto a Giuseppe, il meccanico mi ha detto che non è niente di grave. È una sonda mi sa che sia, che magari è piena di umidità e mi segna questo problema. Ma non fa niente. Comunque l'ho detto Giuseppe il meccanico, se me la vuoi portare così la riproviamo a vedere, faremo la diagnosi. E così Lu, e così. Allora me la vuoi diventi, mi ti gioco, adesso me la gioia fatta. Siete in mezzo, dopo qua te va la sentita. Carichiamo e partiamo. Fino all'una, poi riprendiamo alle 2, fino alle 5. Poi ovviamente se siamo fuori Sassari arrivi più tardi, magari se no più. Poi se c'era da 10 ore in più te li dà, eh. Beh, così bisogna sì. Bisogna sì, così. No, io qua fai quelle ore lì, 8 ore. Alle 2 mesi mi sono andato, viene l'altro collega che mi dà il cambio e mi danno. Beh, certo. Vabbè, dai, Manuel, pure io sono stanco, Sono stanco, capassoli, mamma mia, va, troppo caldo. Avrei preferito avere una felpa sopra, leggera, piuttosto che questo cadavere che ti ammazza. Perché non fa, ti ammazza, a me mi butta un bel a terra, poi questo cazzo di vaccini di merda, ancora peggio. Dai Manuel, ci aggiorniamo, ok. E io sono uguale, la stessa situazione. Quando ho fatto il vaccino fanno male le braccia, le gambe. E niente, vabbè, anche l'operazione che ho avuto, tutto insieme. Però la maggior parte sono i vaccini. E io, vabbè dai, ce la riascoltiamo, dai, che mi ti gocco. Sdraio, guarda un po' di televisione, qualcosa. Dai, ci aggiorniamo, Luca, ce la riascoltiamo, buona serata.